Buonasera a tutti. Due parole solo per presentarvi i due amici compagni, Michele Castaldo e Alessio Galluppi, che sono Michele, che è l'autore del libro, e Alessio, che si è occupato dell'appendice del libro, che tratta dell'intelligenza artificiale. Pezzo molto interessante, che smitizza anche tutta questa narrazione o queste aspettative, poi ci spiegherà meglio lui. Io ho conosciuto Michele, cioè di fama un po' lo conoscevo per i suoi trascorsi un po' bellicosi negli anni 70, poi l'ho conosciuto meglio nel 2017, forse 2016, adesso non ricordo. 2015, non mi ricordo. Ah beh, perché sono un po' lento, è vero, sì. Perché mi aveva proposto un libro che poi è stato pubblicato, che è Marx, il torto e il torto delle cose, che usciva nel centenario della rivoluzione d'ottobre. E il suo contributo mi sembrava utile, perché è un'ottica non esaltante, non una riflessione che interessante, insomma. Questo libro, Modo di produzione e libero arbitrio, potrebbe dare l'impressione, dal titolo, che è un libro pesante, invece no, è un libro sicuramente serio, non serioso, che tratta l'argomento e tratta dei nodi fondamentali un po' di tutta l'ideologia liberista, che in qualche modo, leggendo il libro, uno si accorge che in qualche modo anche assorbito, casomai inconsciamente, ma a forza di martellamenti. Quindi le riflessioni che sono in questo libro sono utili per fare il punto della situazione. Dicevo che è serio o non serioso, perché ci sono anche, non so, ci sono due capitoli che riguardano il calcio, cosa che a me è una materia abbastanza estranea, però interessanti per come lo affronta. Con poi delle battute, diciamo, napoletane molto molto divertenti. Adesso va bene, lascio la parola all'autore Michele e sentiamo un po' come. Forse inizia Alessio. Ok. Inizia Alessio. Allora sì, Renato mi aveva chiesto, diciamo, di fare un breve intervento introduttivo sul libro. Renato ha accennato che diciamo su questo libro c'è una parte, a parte aver scritto la prefazione del libro, c'è un appendice che mentre io scrivevo la prefazione, Michele mi aveva chiesto di scrivere la prefazione a questo suo libro, io stavo scrivendo, diciamo, per conto mio, no, questa riflessione sull'intelligenza artificiale. Nello scambio di materiale Michele ha notato che era a conclusione, ci stava col libro. Ma al di là di questo, diciamo, se devo presentare il libro di Michele, innanzitutto deluderò magari forse chi si aspetta che io possa, che io ripercorrerò esattamente la prefazione o il contenuto della prefazione del libro, quindi quello che dico adesso magari non troverete nella prefazione, oppure mi soffermerò a parlare a lungo sull'intelligenza artificiale. Debbo dire che presentare un libro dal vivo è una cosa completamente diversa dal farne una prefazione, perché quando scrivi una prefazione a un libro tu hai davanti il libro e tu ti immedesimi nella persona che prende il libro, lo sfoglia, legge l'indice, quindi capisce il contenuto e probabilmente lo leggerà, invogliato dalla prefazione. Quando si presenta un libro discorsivamente dal vivo è tutta un'altra cosa. ed è molto più complicato. Come diceva Renato Varani, è il terzo libro di Michele, c'è questo libro che diceva lui al centenario, Marx, il torto delle cose, poi poco dopo ha scritto un altro libro più piccolo ma per certi aspetti in continuità ed efficace, che è La crisi di una teoria rivoluzionaria, e adesso questo terzo libro. Nel mezzo ci sono una raccolta di scritti di Michele, anche quelli pubblicati, che si chiama Nella crisi gli operai come i girasoli. Questo titolo che Michele ha scelto per sintetizzare come una classe storica che si supponeva avrebbe dovuto fare la rivoluzione si approccia alla crisi del modo di produzione, gli ha meritato non so quali e quanti tipi di insulti per questo titolo. In tutti gli scritti di Michele ci sono tre punti fondamentali intrecciati tra di loro, in continuità, magari approfondendoli, migliorandoli, arricchendoli di riflessioni. Il primo punto è il determinismo storico. Invito di tenere a mente e poi magari fare riferimento al libro oppure alle parole che dirà Michele, il determinismo storico, perché si usa il termine determinismo storico o non quello che classicamente siamo abituati a conoscere come il materialismo storico dialettico. Forse in quello che dirò poi dopo si capirà perché Michele parla di determinismo storico e non di materialismo storico dialettico secondo la formulazione di Engels. Il secondo tema è il libero arbitrio, va bene? Ossia quell'humus comune di tutte le filosofie e ideologie che non fanno come riferimento al determinismo storico, ossia la concezione di che cosa muove la storia attraverso un movimento che non è mai uguale e ripetitivo nel tempo. E il libero arbitrio, appunto, rapportato soprattutto in particolar modo a quella che viene definita, diciamo, l'oggetto poi di critica affrontata nel libro, la questione del liberismo e della liberal democrazia, perché il liberismo e la liberal democrazia è alla fin fine il punto di interpretazione delle necessità storiche e impersonali di un modo di produzione storico che possiamo chiamare oggi capitalismo. È quello che interpreta meglio il percorso storico di questo movimento, ok, dell'accumulazione capitalistica. E il terzo elemento è che questo movimento storico ha raggiunto la sua tempo di fine. Ed è un tempo di fine che le stesse ideologie del liberismo colgono, avvertono, esprimono, talvolta lo dicono apertamente. Ok? E dicono che però di fronte alla crisi, che a volte viene vista semplicemente come crisi solo dell'Occidente o la crisi degli Stati Uniti d'America, no? Alcuni invece viceversa colgono che questa crisi è più profonda di un semplice aspetto, è più sistemica. Faccio una breve divagazione, perché casualmente, a caso e non per caso, poco dopo la pubblicazione, anche il lavoro meticoloso di Renato nel pubblicare correttamente questo libro, io non è che voglio fare pubblicità a un liberista, mi è capitato sotto mano questo libro, cioè questo signore che si chiama Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello IOR, cattolico, convinto. Lui parla di una crisi sistemica no? Dell'Occidente, ma non dell'Occidente, del modo di produzione, dice dell'Occidente perché ritiene che il capitalismo è un prodotto della civiltà cristiana, cattolica, occidentale, che non è che l'ha esportata, ha plasmato il mondo. L'Occidente è in crisi e in crisi sistemica l'intero mondo. Dice, non si tratta di parlare di crisi finanziarie, possiamo dire un tempo X dove vediamo le manifestazioni più evidenti della crisi, la crisi finanziaria 2007-2008, ma è più profonda. Non esiste la crisi, il rallentamento cinese. La Cina è in crisi perché è in crisi l'Occidente. L'Occidente, essendo il faro di un modo di produzione che ha inventato la civiltà, no, cristiana, cattolica, no, entrando in crisi lui, entra in crisi l'intera catena. Ed è ovvio che Ettore Gotti Tedeschi sostiene gli elementi della crisi utilizzando degli elementi materiali, ma, e qui capiamo perché aggrediamo la questione del libero arbitrio, perché quando dice è la civiltà cristiana che ha fatto, diciamo, il cattolicesimo, ha fondato il capitalismo, sta dicendo esattamente questa cosa, che ci sono delle leggi naturali date da Dio a rigenerare, a creare la famiglia e l'imprenditorialità assieme alla famiglia, e attraverso anche l'altro dono che ci ha fatto Dio del libero arbitrio, l'uomo attraverso la volontà, e chi ha la migliore volontà agganciata ai migliori valori etici ha prodotto quello che ha prodotto nella storia. Sicuramente le ingiustizie, le cose, ma anche l'Africa si è sviluppata. Ora questo meccanismo è entrato in crisi, ed è entrato in crisi fondamentalmente perché dice che non si fanno più, perché l'Occidente si è allontanato dalla legge naturale e quindi non produce e non fa figli. Non producendo e non facendo figli, noi semplicemente sosteniamo la produttività attraverso un consumo che si basa sul debito, che è diventato insostenibile, e in virtù di questa insostenibilità anche gli altri paesi che producevano per noi producono di meno, e quindi anche loro rallenta. E questa cosa, diciamo, non è reversibile, a meno che, e poi vedremo quali sono le soluzioni che questo signore dice. Però questa, voi direte, cioè, ma questo è un cattolico, è un cristiano, è un credente in Dio. Sappiamo che la religione è l'oppio dei popoli. Credo che Michele accenni a questo aspetto nel suo libro, e devo dire che su questa sintesi che la religione è l'oppio dei popoli, io da un po' di tempo per conto mio mi facevo qualche domanda. Che senso ha dire che la religione è l'oppio dei popoli? Rispetto a una concezione della storia dove sono le relazioni degli uomini con i rapporti della produzione e le relazioni determinate in virtù di questa necessità anche dei rapporti della riproduzione sociale determinano la storia, in un movimento mai uguale nel tempo. Che cosa vuol dire la religione è l'oppio dei popoli? Cioè, le religioni si sono sviluppate perché c'erano degli spacciatori di false credenze, o hanno trovato una ragione materiale rispetto ai problemi del tempo a fornire le soluzioni per le domande che si presentavano nel tempo? Se è così, dire la religione è l'oppio dei popoli significa che ha sempre parlato di chiacchiere. Dopodiché, se conosciamo le religioni, quelle no, quelle che più appartengono al bacino del Mediterraneo, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islamismo, ci rendiamo conto che in momenti diversi queste religioni, in un contesto storico, hanno formulato dei precetti che evidentemente sono sembrati delle soluzioni ai problemi del tempo. Innanzitutto non si sono propagate perché giravano gli spacciatori, si sono propagate attraverso delle popolazioni che si muovevano attraverso gli scambi mercantili. Le religioni monoteiste più importanti si sono, queste tre che conosciamo, si sono diffuse attraverso gli scambi mercantili. E attraverso gli scambi mercantili i precetti religiosi che hanno conquistato, non dei tossicodipendenti, erano basati su due cose quando si sono affermate. In società in cui il lavoro si basava sulla schiavitù e la schiavitù stava diventando un modo di produzione, un modo di incrementare la produttività del lavoro oramai insostenibile. Immaginiamo Roma che è crollata perché non poteva più sostenere un lavoro basato sulla schiavitù, perché oramai erano diventati tutti liberi e la gente fuggiva dalle campagne, non sapevano come trattenerli. Queste religioni hanno detto: cari uomini, non è che il lavoro appartiene agli schiavi, si lavora 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato o fino alla domenica o fino al venerdì, e un giorno si riposa per ricostituire la forza lavoro, delle forze del lavoro. E la seconda cosa che dicevano: non dovete prestare troppo il denaro con troppo interesse. Questi elementi comuni nelle religioni ci sono, quindi dire che la religione è l'oppio dei popoli, no, sfugge il senso materiale e sfugge perché un cattolico oggi arriva a dire l'abbiamo inventato noi. Perché evidentemente in un momento della storia in cui il mondo si basava sul lavoro della schiavitù, la schiavitù nell'epoca romana non poteva più andare avanti e di fronte anche a una crisi demografica si è disciolto. Chiusa questa divagazione, è ovvio che noi veniamo da una corrente che si rifà al comunismo ideale e che per 2 secoli ci siamo immaginati che negli ultimi 2 secoli sarebbero stati 2 secoli in cui una classe rivoluzionaria avrebbe dato vita alla rivoluzione e alle necessità del comunismo. Il liberismo, usando i fatti concreti della storia, ha smontato alla prova dei fatti questo modello. E hanno, praticamente ritorniamo ai temi del libro, hanno negli ultimi, dagli anni 90, festeggiato il fine, il compimento della storia, perché tutto il mondo, no, andava in quella direzione. Improvvisamente avvertono che, come dicevo prima, che questo meccanismo si è inceppato. E nel momento in cui questo meccanismo si inceppa e tutti parlano di una crisi più generale e sistemica del modo di produzione capitalistico, le correnti del comunismo ideale non lo vedono, si sciolgono, non se ne accorgono, non notano una crisi sistemica. Io vi invito ad andare dopo in serata e cercarvi su YouTube alcune interviste, alcuni commenti di questo signore, no, che parla, descrive la crisi, no, che stiamo vivendo. Ma poi gli ultimi 3 anni sono successe cose inimmaginabili 20 anni fa, inimmaginabili. Un lockdown, una rivolta dei neri così diffusa negli Stati Uniti d'America che per la prima volta proletari bianchi si sono uniti alle rivolte dei neri, l'assalto al Capitol Hill, Oggi Israele che è alle prese per la prima volta nella sua storia a una guerra vera, e per la prima volta una guerra vera, che dopo che avevamo rimesso le mani al saccheggio dell'Africa, il Sahel prende a calci nel sedere gli europei. Cioè stiamo assistendo a ripetizione negli ultimi 3 anni a una ripetizione di eventi, di fatti che sono espressione della crisi di un modo di produzione che non riesce più a domare l'Africa, perché dando, no, soldi, o semplicemente perché l'Occidente non è più in grado di vendere all'Africa i macchinari che non produce più. Il comunismo ideale questa cosa non la vede. Non la vede, si scioglie, e quello che d'altra parte una corrente che fino a mo era pragmatica, i liberisti che portavano le prove sul fatto, ma l'Africa si è sviluppata, ma noi abbiamo dato la libertà alle donne. Però adesso le donne vengono, cioè ci sono femminicidi ogni 3 giorni, ogni giorno una donna ammazzata, soprattutto in Occidente. No? Abbiamo dato queste. Però non c'è altra alternativa all'infuori di questo. E quello che siamo chiamati a fare, e questo è l'intento di questo libro, è di gettare le premesse di un necessario manifesto politico sulla crisi del modo di produzione, contro le correnti che di fronte alla crisi sostengono che non c'è altra cosa da fare. Cerco di andare velocemente. Su alcune questioni. Innanzitutto, che cos'è la crisi di un modo di produzione? La crisi di un modo di produzione non è semplicemente la recessione economica o l'inflazione o la disoccupazione o due cose di queste insieme. È una crisi che dove i fattori necessari alla riproduzione in movimento di questo modo di produzione si inceppano, non solo dei fattori della produzione, ma anche della riproduzione sociale. Quindi tutto ciò che emerge sono espressioni caotiche di una disgregazione di quanto la produzione del profitto o dell'accumulazione del capitale ha composto attraverso il mercato. È una crisi di scomposizione, di deflagrazione. Siamo arrivati al punto tale che le donne con preoccupazione avvertono che c'è qualche cosa che nel rapporto di specie non va. Non va. Non va. Ok? E non va perché, ce lo dice Gotti tedeschi, non fate i figli, quindi le donne devono tornare a fare i figli. Lo chiedono tutti, tutti, che la donna si deve mettere a servizio della riprocreazione dei figli, perché fare i figli è un fattore della produttività sociale. Lo chiedono pure le coppie omosessuali, dateci figli. Per riconoscerci come famiglia anche noi dimostriamo che noi, siccome la famiglia è un'unità, no, di produzione e consumo di beni in comune, e quindi anche di produzione di figli, li produciamo anche a noi, però ci dovete dare, no, giustamente, delle donne che vendono, affittano l'utero a questo scopo. Marx descrive bene cos'è la crisi, solo che al tempo di Marx i fattori necessari all'accumulazione capitalistica e quelli imprescindibili per l'accumulazione capitalistica fondamentalmente sono 3, che si accumulano i fattori decisivi per l'accumulazione più allargata. Quindi ci sia una sovrapproduzione delle materie prime e soprattutto di quelle merci che servono per creare i macchinari che producono macchine. Senza questa sovrapproduzione non puoi accumulare le ricchezze. La seconda cosa, che ci sia un plus valore necessario esistente. No, scusate, plus lavoro necessario esistente. Significa plus lavoro necessario esistente. Un livello di produttività sociale possibile. Se c'è questa produttività, le ricchezze in denaro possono trovare i capitali necessari per continuare in maniera allargata il processo. Il terzo elemento, siccome la merce si realizza attraverso il valore di scambio, deve essere scambiata e consumata. E siccome il proletariato è quel soggetto, quella componente, quel gruppo sociale nella divisione del lavoro che fino a un certo punto può consumare questa quantità enorme di merci, questa avviene attraverso l'aumento della popolazione. Marx nota questi aspetti, li cita, cita addirittura che è decisivo il fatto che nella società reale avvengono dei fatti, oltre alla concorrenza, oltre a questo, a quell'altro, dei fatti che noi non possiamo controllare, perché la società reale è composta da una categoria di consumatori di questa merce come elemento necessario, che per la maggior parte non sono riconducibili al lavoro produttivo, ossia alle categorie dei borghesi, dei capitalisti e dei proletari che acquisiscono il reddito tramite la produzione del valore e se lo dividono tra salario e profitto sociale. E quando Marx analizza queste cose, le analizza in un mondo in cui questa scompensazione della sovrapproduzione veniva continuamente e violentemente ricompensata, rimettendola poi sempre in discussione in avanti, ma sembrava io un circolo continuo di crisi cicliche che si ripetevano nel tempo, ma che venivano risolte automaticamente, perché questa produttività plus lavoro necessario si dava, questa produttività in più si dava, capacità di produttività sociale in più si dava, e la popolazione cresceva. Gotti, quando dice noi siamo entrati in crisi quando in tutto il mondo è cominciato a esserci una decrescita della popolazione, coglie un elemento, perché è uno dei tre fattori. Il secondo fattore è quello della produttività, e qui mi collego all'appendice, perché la produttività raggiunta da questo modo di produzione oggi non è più in grado di ricreare, riprodurre gli elementi necessari per questa produttività raggiunta, una produttività che è distruttiva della natura, nel tempo utile inferiore al logoramento stesso della produttività. Per chi lavora nell'informatica, come me, sa benissimo che un microchip ha una durata di vita estremamente inferiore al tempo in cui ci vuole a produrre un microchip. Quindi il macchinario che è diventato il core dell'industrialismo contemporaneo, che è l'informatica, non c'è niente. Non c'è merce che viene prodotta, consumata o che viene usata come macchinario che non ha al suo interno come core questo aspetto, che ha sostituito la manifattura tradizionale. Oggi ci sono i data center. Se una volta le cattedrali del capitalismo era la grande fabbrica con la catena di montaggio, la cattedrale energivora e distruttiva sono i data center. Nei data center il microchip si fonde in una velocità estremamente superiore al tempo che ci vuole per produrlo. E questo significa che rimettere, riavviare questo motore ha dei costi enormi, se ci pensate, improduttivi. Se ci pensate, l'oro, che dà la ricchezza, sarebbe la rappresentazione della ricchezza, hanno nel mondo, nella storia della scoperta dell'oro, hanno estratto 150.000 tonnellate d'oro, i cui quasi più dei due terzi li hanno estratti tra gli anni 50 e 60. Poi si sono fermati. Perché l'oro, che doveva essere la merce speciale con la doppia funzionalità di essere una merce e quindi equiparabile al lavoro sociale necessario a estrarla, a produrla, a plasmarla e a fare il conio della moneta, e al tempo stesso essere lo strumento di misura del valore di tutte le merci, a un certo punto diventava troppo costoso estrarla. C'è più oro che petrolio sottoterra, solo che è più facile estrarre il petrolio. E adesso anche estrarre il petrolio è diventato estremamente costoso. Si è scelti un meccanismo diverso che immediatamente nel giro di pochi anni è diventato costosissimo. Il carbone ha durato per secoli, non scompare, ma scavare il carbone e renderlo buono per le diverse finalità bisogna andare sempre più in profondità della terra e ha un costo enorme. Così è per il microchip, per tutta la catena di produzione, il costo è enorme. È un costo anche fisico, perché la produttività richiesta, la produttività infinita per aumentare e espandere l'accumulazione in un meccanismo che ha delle leggi impersonali, pretenderebbe un microchip sempre più piccolo per renderlo più veloce. La velocità del processore lo espone a squagliarsi molto più velocemente. E farlo più piccolo, estremamente più complicato, perché si arriva a un limite fisico atomico. Ce lo dicono gli inventori del microchip. Un tizio, Gordon Moore, che è il fondatore della Intel, aveva una teoria che il microchip si sarebbe sviluppato all'infinito. Nel 2005 dice, scusate, ho detto una stupidaggine. Non è possibile. L'intelligenza artificiale è fondamentalmente l'incontro di due contrapposte necessità. Il fatto che questo modo di produzione, i cosiddetti consumatori, lavoro non produttivo, sono diventati tutti inglobati nella catena del lavoro produttivo, tutte le attività, qualsiasi, e sono state ottimizzate, specializzate, automatizzate, nelle esecutività, cioè sono state rese stupide ma costose, perché no? Il passaggio successivo è come, no, mettere la macchina a vapore per rendere più produttiva la manifattura, o mettere la catena di montaggio, una serie di funzioni del lavoro cognitivo vivo sono sostituibili ed è necessariamente, debbono essere sostituite dall'uso dell'algoritmo, perché bisogna rincorrere la produttività. Il secondo incontro è il fatto che attraverso l'intelligenza artificiale si pensa di sopperire al limite in cui ha raggiunto l'industria dei microchip. Due cose che tra di loro cozzano e che non riescono a combinarsi. E su questo fondamentalmente ci sono in grandi linee due pensieri. Uno che sostiene, e forse è quello più interessante da demolire, Sì, è vero, scompariranno più di un quarto, delle attività del lavoro cognitivo, scompariranno come lavoro vivo e saranno automatizzate e appaltate a un algoritmo qualsiasi. Però vedrete, tra 50 anni l'effetto sarà un Big Bang, un grande balzo come la macchina a vapore ha consentito. Il problema è che per svilupparsi l'intelligenza artificiale deve risolvere l'irrisolvibile crisi del microchip e che servono molti più microchip, li brucerà molti più velocemente. La seconda cosa di pensiero sono le paure di Elon Musk. Elon Musk non è spaventato perché l'intelligenza artificiale possa controllare, sostituirsi all'uomo. Ammesso e non concesso che possa parlarsi di intelligenza per quanto si riguarda l'algoritmo informatico. Perché avverte, viceversa, questa cosa, la non soluzione sul fatto che scompariranno e quindi quella capacità di consumo tramite un indebitamento, cioè dopo che ci avremo fatto tutta questa produttività, chi consumerà la merce? Elon Musk, come Ettore Gotti, dà il pragmatismo del cattolico banchiere dello York, che ci spiega perché il capitalismo ha dimostrato di essere superiore ai tentativi del comunismo ideale. E al pragmatismo di Elon Musk, che tutto sommato sapete tutti di che cosa si occupa, propongono dei modelli a soluzione. Entrambi propongono il salario generale universale, il salario garantito. Ok? Ma ci sono dei punti interrogativi pure su questa questione. E cerco di spiegare quali sono. Uno lo chiarisce Elon Musk. Ma se una società di fronte alla crisi cui si trova davanti, che deve addirittura tagliare il ramo del lavoro cognitivo, attenzione, tagliare il ramo del lavoro cognitivo significa mettere in discussione quella supremazia che noi viviamo, che gli operai sono costretti a subire. Naturalmente che il lavoro cognitivo è superiore al lavoro manuale, ok? Quindi deve scomparire, questo viene ridotto, siccome è diventato stupido, viene sostituito. Quindi non c'è, no, la base fondamentale della supremazia. Se scompare e io gli do a questa gente un salario universale, visto che l'uomo da millenni ha una coscienza di sé, in virtù che produce e contribuisce a produrre il valore indipendentemente che gli viene espropriato dal capitalismo al lavoratore, ma si determina come coscienza, ma che ne farà del suo salario? Niente. Noi consumiamo l'eccedenza del nostro salario semplicemente perché è l'unica maniera con la quale ripaghiamo le fatiche del lavoro. L'eccedenza, noi consumiamo la merce in eccedenza per curare le ferite del lavoro. E se tu non avrai ferite del lavoro, molto probabilmente questi non consumeranno ugualmente come si aspettano. Quindi quello che viene messo in discussione dalla crisi è un modo di produrre, un modo non di consumare ma di usare ciò che produciamo, è un modo come ci riproduciamo come comunità sociale che si pone, e i signori non hanno una risposta, propongono a questo punto, dopo averci sbattuto in faccia le prove dei loro successi che ci hanno portato, c'è chi non pensa che non è vero, sulla luna o comunque ci hanno fatto volare con l'aeroplano, oggi non sanno che cosa dire. E quello che noi dovremmo discutere ok? Perché noi stiamo assistendo, secondo me, a degli eventi inediti, perlomeno, inaspettati, e di cominciare a discutere su un manifesto, sulla, un manifesto politico sulla crisi di un modo di produzione come un tempo finito, che non potrà, i cui eventi dell'oggi non possono ripetersi secondo le modalità del passato, perché i fattori del tempo e dello spazio mutano di continuo e quindi mutano i fenomeni e mutano anche le modalità in cui un agente riflesso della crisi dovrà farci i conti, cioè come il mondo degli sfruttati, proletari, oppressi del sud del mondo saranno chiamati a porsi delle domande diverse, che sono il precipitato di un momento storico completamente diverso, che non è quello del passato. Chiuso. Allora, non ci poteva essere una presentazione migliore del mio libro, devo dire la verità, anzi per certi aspetti io mi rendo conto che si tratta di una discussione complicata. Però chi legge il titolo del libro, come diceva già Alessio prima, può essere, diciamo così, frainteso. Diceva, questo è un libro teorico. Allora, chi parla non è un teorico, niente Harvard, la Sorbona, la Sapienza di Roma e neanche la Federico II di Napoli. Sono una persona maturata nelle lotte, lotte operaie, lotte dei disoccupati, diciamo che sono stato l'artefice dello sviluppo dei movimenti dei disoccupati a Napoli, in provincia prima e a Napoli poi. Quindi da un militante degli anni 70, nelle lotte, con le lotte. La questura, in questura c'è un malloppo pieno di denunce e così via, qualche volta pure in carcere. Quindi un militante a tutti gli effetti. Un militante che però poi a un certo punto si è cominciato a porre certi problemi. Perché guardate, quando i conti non tornano, caro Visconti, bisogna farli, rifarli. E rifarli è complicato. Anche perché rifare i conti di quanto noi abbiamo speso in termini di idealismo o di ideale è complicato, perché sono pugni nello stomaco. Da qua non scappa. Ma o li rifacciamo in una fase di crisi acuta come questa, oppure guardate, la storia va avanti, prosegue, ci ignora. Non è che ignora soltanto noi delle generazioni passate, perché io non parlo al passato, io parlo al futuro in questo libro. Ignora chi non vuole vedere o si sforza di non vedere la crisi di sistema. In che consiste questa crisi di sistema? Guardate, nel mio libro io cerco di fare un ragionamento pratico. Fermo restando che dietro questo libro ci sono anni di studio, di approfondimento, di riflessione, ma un ragionamento pratico. Perché vedete, noi abbiamo per 200 e passa anni criticato il capitalismo, ma noi abbiamo criticato il capitalismo da un punto di vista valoriale, cioè perché il capitalista sfruttava l'operaio, no? Questa era la questione fondamentale rispetto a tutto il resto, ma questa era la questione centrale dalla quale poi dipendeva tutto il resto. Ma il capitalismo, nel vero senso della parola, che cos'è esattamente? Molti se lo sono chiesti, però non tutti hanno dato la stessa risposta e per lo più hanno dato le risposte più variegate. In conclusione, però, non c'è stata, secondo me, una vera critica radicale al modo di produzione capitalistico. Tanto è vero che gli occidentali liberisti se ne sono usciti dicendo: noi abbiamo inventato un modello, il quale modello ha dato sviluppo in tutto il mondo, e voi che lo avete sfidato e lo avete criticato da un punto di vista valoriale dovete stare zitti. Questo è vero in assoluto, questo ragionamento, perché loro portano sul tavolo, no, un patrimonio, come si direbbe in altro termine, loro portano in dote un'esperienza storica straordinaria, liberisti, dicendo: delle che parlate, che ci avete criticato, noi abbiamo inventato un modello che ha creato lo sviluppo, alt, diciamo noi, alt. Innanzitutto va detto che il capitalismo, guardate, non è un modello, anzi questo libro nasce proprio come necessità di una critica di fondo a una impostazione che vuole assegnare al capitalismo una modellistica, come se il capitalismo fosse nato da Venere e fosse stato portato sulla Terra da un pugno di uomini. È completamente sbagliato, non è vero. Il capitalismo, il modo di produzione capitalistico, è la conseguenza storica, processuale, del rapporto degli uomini con i mezzi di produzione nati con lo scambio. Dallo scambio, il rapporto con i mezzi di produzione, lo sviluppo dei mezzi di produzione e così via, si è arrivati poi al capitalismo. Quindi parliamo di movimento storico, non di modello inventato da un pugno di uomini. Io farò un esempio serio su questa questione. Si dice che la scoperta dell'America è stata la svolta della quale praticamente gli occidentali liberisti possono testimoniare di aver creato un modello. Guardate, c'è da dire una cosa molto semplice invece. C'è un autore che si chiama Braudel, un francese, il quale ha scritto tre libri di 700-800 pagine per ciascuno, è Braudel, il quale lui fa un ragionamento serio su che cosa è stato il processo storico per quanto riguarda il capitalismo, ma su un punto cruciale, fondamentale, va bene, è necessario riflettere, ed è questo. Vi invito a non sarò lunghissimo, non vi preoccupate, ho il pregio della sintesi. Il punto è questo: arrivati a un certo punto, i mercanti che erano abituati, i mercanti europei, che erano abituati ad andare in India o in Cina con i cavalli e le carrozze, decidono di utilizzare la via del mare. Perché? Per una necessità semplice. Perché praticamente per poter andare con i cavalli bisognava accumulare risorse e derrate alimentari per i cavalli e per gli uomini, oltre alle carrozze e quant'altro. La via del mare avrebbe consentito, dice Braudel, di impiegare l'acqua e il vento. Quindi di risparmiare sui mezzi di produzione, no? Perché si risparmia, è così, e aumento della produttività del lavoro. Sono i due fattori fondamentali dello scambio degli uomini con i mezzi di produzione, che partiti da allora, oggi si sono sviluppati man mano e oggi stanno presentando il conto in quelle cose che diceva giustamente Alessio in maniera più brillante di come le posso dire io. Arrivato a un certo punto, quindi, si tende alla via del mare. Attenzione bene a questo passaggio che faccio. La via del mare per risparmiare, quindi costi di produzione e aumento della produttività. Ma perché questo? Perché il modo di produzione, o per meglio ancora dire dello scambio, prevedeva alcuni fattori per lo sviluppo. Cioè la merce, poi il denaro, poi la merce maggiorata, oppure e poi ancora denaro, merce, denaro, maggiorata. Cioè lo sviluppo. Un sistema vero e proprio, no? Un sistema impersonale, non è che l'ha inventato qualcuno, un sistema impersonale del rapporto degli uomini con i mezzi di produzione. Arrivato a un certo punto si decide praticamente di non andare più per via terra, ma di tentare la via del mare. Questi partono con le navi, a parte che i cinesi ci erano andati già 10 secoli prima. Non avevano trovato niente di interessante per loro e se ne erano tornati indietro, ma lasciamo stare questo. Quando però partono per andare in India con le navi, poi vengono trasportati dai venti alisei in America. Questa è la verità. Dopodiché, quando arrivano in America, qui non mi dilungo, scambiano letteralmente criminalità, delinquenza con un terreno fertile, un caldo umido, con tutto il resto che hanno trovato, le materie prime, cioè oro e argento, da cui poi si è sviluppata tutta quanta la ricchezza di cui alcuni di voi sicuramente sanno. Ora, a questo punto, vedete, c'è chi sostiene, come per esempio un compagno di Napoli, un certo Silvio Serino, un compagno che è morto una quindicina d'anni fa, purtroppo, fece un libro, scrisse un libro, L'uovo di Colombo e la gallina coloniale, nel quale libro lui sosteneva praticamente, a ragion veduta, citando una serie di storici, che praticamente Colombo c'era arrivato per caso in America. Il che era vero, attenzione bene, il che era vero. Quindi smentiva la tesi prima che la razza bianca è una razza superiore, secondo che ci erano andati in America perché si erano organizzati e avevano studiato per andarci. Terza questione però, questo libro conteneva un limite e su questo limite che io ho cercato di ragionare. Qual è il limite? È che arrivato a un certo punto poi il compagno dice se non fossero queste navi state ventilate dai venti alisei si sarebbero perse nell'oceano e così via per un calcolo sbagliato che avevano fatto sulla lontananza, sulla distanza, sui venti e così via. Tesi completamente sbagliata. Perché una tesi completamente sbagliata? Perché il materialista non ragiona su che cosa non è successo. No, noi discutiamo su che cosa è successo e perché è successo. Questa è la questione. E non come sarebbe potuto andare. Dopodiché, quando diciamo questa cosa, non la diciamo per criticare il compagno. No, noi la diciamo per un'altra ragione, proprio perché gli europei hanno scambiato criminalità e malattie nel Sud America e hanno importato, quindi hanno scambiato ricchezze straordinarie e hanno commercializzato con gli schiavi e hanno, portando quell'oro e argento, hanno potuto sviluppare all'infinito uno straordinario processo storico, poi hanno descritto questo latrocinio, questo massacro, questa rapina imperialista e colonialista come un vanto, no, di primogenitura, di modello storico inventato e portato nel resto del mondo. No, alt, non è così. Voi siete stati questo. Vedete, c'è una battuta napoletana, è una barzelletta che fu coniata nel 1972, io vado a braccio, nel 1972 ci fu un incontro a Pechino quando Nixon andò lì, insomma, per fare affari, e mentre scendeva dalla scaletta dell'aereo e porgeva la mano a Mao Zedong, dicono i napoletani che avesse detto a Mao: guarda, mo ti faccio un assegno, così ti togli questi pensieri dalla testa. Ovvero sia, il padrone delle ferriere, il prepotente, il mafioso, il camorrista, no? Che si rivolgeva a chi aveva bisogno, o ti faccio un assegno, come dire: guarda, sei un povero disgraziato. In realtà, dietro quella espressione di Nixon c'erano 500 anni di dominio massacrante, di colonialismo, di imperialismo. È questa la questione che va posta con forza da parte nostra. Solo per denunciare? No, non solo per denunciare, ma per un'altra questione. Qui è il punto cruciale. Perché praticamente, nonostante questa straordinaria accumulazione, questo scambio ineguale, questo razzismo e così via, poi che cosa è successo? La storia ti presenta il conto. Cioè, tu hai sostenuto queste leggi impersonali dell'accumulazione, dello sfruttamento, dell'oppressione, dello schiavismo, va bene. Ma sei arrivato a un punto morto, come diceva Alessio. A fronte di questa storia criminale del liberismo occidentale, vedete, c'è stata un'altra illusione. È la nostra illusione, diciamocelo chiaramente. Quella che da Robespierre in poi noi abbiamo pensato di contrapporre al modello capitalistico cosiddetto liberale un altro modello capitalistico, magari non liberale, ma magari centralizzato, magari... sì, compagno, non ti meravigliare. Ecco. No. Noi abbiamo pensato, abbiamo ipotizzato di no, un altro modello capitalistico, più egualitario, con Robespierre in poi, no? I compagni lo sanno, in Francia, subito dopo la rivoluzione del 1793, si pensò di modellare il capitalismo con una legge sul maximum, cioè che determinati prodotti non potessero costare più di un tot e che determinati stipendi non superassero certi livelli. Quindi non che non ci sia mai stato un tentativo, c'è stato, e come da parte dell'ideale di chi si rivolgeva all'umanità in maniera, diciamo così, comunitaria o comunitativa, come diceva qualche compagno, In realtà però le leggi impersonali del capitalismo ci hanno surclassato. Durante la Comune di Parigi la stessa cosa, era stato eliminato il turno di notte nelle panetterie, poi c'è stata la rivolta e Robespierre, quando è andato al patibolo in mezzo a due ali di folla, perché gli artigiani volevano arricchirsi. Quindi siamo alle leggi del modo di produzione come movimento storico, non come modello. Tanto per fare un altro esempio, nella Russia del 1917, attenzione bene, c'è un precedente ancora al 1917 che pochi storici citano, ma che io intendo citare anche nel libro. Nel 1905 ci fu un massacro nella cosiddetta famosa Domenica di Sangue. Guardate, tutti gli storici, tutti, parlano di un massacro ad opera della polizia zarista, il che è vero. Nessuno però dice, scrive, che gli operai protestavano sotto la sede dello zar, inneggiando allo zar con i cartelli dello zar, per chiedere di intervenire nei confronti dei capitalisti europei che avevano investito in Russia e che avevano indebitato oltremodo la Russia. Va bene? Quel massacro è vero che fu operato dalla polizia zarista, ma va ascritto alla responsabilità di un modo di produzione e di accumulazione che gli occidentali avevano la responsabilità. Questa cosa non la troverete da nessuna parte. E non la troverete da nessuna parte, perché era facile sparare sullo zar, reazionario, conservatore, monarchico e quant'altro, mentre la responsabilità vera era di un modo di produzione impersonale che era non nato in Occidente, ma era sorto in Occidente grazie a quella rapina di cui stiamo parlando, ovvero sia del famoso 1492. Non solo, ma quando poi, ancora nel 1917, successivamente, si sviluppa la rivoluzione in Russia, il povero Lenin pensava che le mani callose dei contadini, dei mugighi, dei contadini poveri, in quanto tali potessero essere, diciamo così, equiparati agli operai. Così non era, perché i contadini volevano arricchirsi e l'Occidente insolfava i contadini per ribellarsi contro il potere sovietico. È inutile che ci giriamo intorno. È una verità storica atroce. Noi abbiamo tentato nel corso di 200 e passa anni di dire delle cose diverse, di indirizzare lo sviluppo del rapporto dei mezzi di produzione in modo diverso rispetto al liberismo. Siamo stati sconfitti, ma siamo stati sconfitti perché alle spalle questi avevano il 1492 a seguire. Non so se riesco a rendere l'idea. In questi termini va posto la questione. Ora, praticamente, che cosa è successo poi? E qui concludo per non appesantire troppo. Che è arrivata la rivoluzione industriale. La quale rivoluzione industriale? Udite, udite, qui faccio un passaggio, vi prego proprio di seguirmi su questa cosa. Si dice, ma perché la rivoluzione industriale è nata in Inghilterra? Più bravi, più intelligenti, bianchi. C'è questo Brodel, questo storico famoso di cui parlavo prima, il quale fa una riflessione sulla composizione del terreno e dice: guardate che se è vero che fu tentata la via del mare dai mercanti nel 1492, l'Inghilterra è una terra piatta, senza montagne alte, tant'è vero che fu sviluppata la pastorizia, con un fiume centrale da nord a sud e con fiumi laterali che arrivavano al mare. Cioè la navigazione era importante ai fini del rapporto dei mezzi di produzione con l'uomo. E lo avevano scoperto già i turchi prima, che addirittura partivano dalla Turchia, va bene, e arrivati poi alle coste dell'Egitto, egiziane, praticamente smontavano il tutto, passavano l'istmo che ancora c'era, che non era stato ancora sviluppato il canale, costruito il canale di Suez, per passare dall'altra parte e continuare poi, diciamo così, il commercio con le due rive africana e araba dall'altra parte. Quindi la ragione per cui, dice Brodel, si è sviluppata prima la rivoluzione industriale in Inghilterra è presto detto, perché ha potuto sviluppare prima le vie marittime, a differenza per esempio della Russia, che per arrivare in Siberia e commerciare con il nord praticamente lo poteva fare soltanto 3 mesi all'anno. Questa è la questione. Concludo dicendo, noi siamo arrivati a un punto attualmente dove praticamente su due cose soffermo l'attenzione per un minuto, già accennata da Alessio. Una è quella della questione della donna. Vedete, in passato sul piano storico c'è stata una polemica nei confronti di Malthus, perché praticamente Malthus diceva: guardate che c'è, diciamo così, una sproporzione, no, tra la coltivazione della terra e la crescita dell'uomo, per cui c'è il rischio che arrivato a un certo punto si vada in crisi, no? Ma lo poneva questo prete, diciamo, in maniera abbastanza intuitivo. Lui però non poteva prevedere, perché il futuro non si prevede, il futuro si verifica strada facendo. Lui non poteva prevedere quello che è successo, sta succedendo adesso. Allora io dico ai compagni, badate bene, quando c'è stata la morte di Mao Zedong, che poi col Deng Xiaopingismo, va bene, si disse un figlio a famiglia e non più, perché noi per poter sviluppare l'industrializzazione dobbiamo farla a tappe forzate, quindi dobbiamo frenare la crescita di figli. Ci siamo? Poi però c'è stato in Cina uno sviluppo poteroso, straordinario, mai vista una cosa del genere, in termini quantitativi, qualitativi, a tutti gli effetti. Straordinario, è inutile che... Oggi Deng Xiaoping, dopo questo straordinario sviluppo, è stato costretto a dire: signori, se noi produciamo tante merci e le donne non fanno più figli, noi le merci, quello che diceva Alessio prima, a chi le vendiamo? Non si consumano, e noi andiamo in una crisi profonda. Guardate che dal 1972, il famoso incontro di Nixon di cui dicevo prima, ad oggi sono passati pochi anni, 50 anni. Nella storia, cosa volete che siano 50 anni? E in 50 anni la Cina ha dovuto invertire totalmente la tendenza. Negli Stati Uniti c'è un calo demografico continuo, in Europa c'è un calo demografico. Le donne, che sono state emancipate secondo il modello liberista, come loro dicono, è stata resa libera, a giusta ragione dicono: non voglio avere più figli, perché devo essere soltanto uno strumento della riproduzione? Voglio vivere la mia vita. Non lo dicono soltanto in Occidente, badate bene, lo dicono anche in Cina. Chi segue un po' le cose sa che in Cina praticamente questa questione è una questione divenuta importantissima. Quindi negli Stati Uniti in Europa, in Cina, il calo demografico è un fatto reale, proprio quando il modo di produzione capitalistico è in crisi e avrebbe maggiore necessità, no, dello sviluppo demografico per consumare le merci. Proprio per questa ragione, in virtù di questo, si sta bloccando praticamente il modo di produzione, con una crisi irreversibile. Guardate, io faccio una previsione semplice nel mio libro, lo dico senza mezzi termini. Io ritengo che si vada incontro a una crisi catastrofica. Dopodiché, per le leggi del modo di produzione, per la impersonalità, cioè perché non si possono correggere le modi di... Tutti parlano di crisi, tutti si domandano che fine farà il capitalismo, ma tutti ritengono che il capitalismo possa essere corretto in quanto modello. Noi diciamo no. Posso dire noi? Ormai. Noi diciamo no oggi. Diciamo che il modo di produzione capitalistico, in quanto movimento storico, è arrivato a un punto morto in cui non può più procedere e andrà incontro sempre di più verso una crisi catastrofica. Dopodiché, ma allora, per quello che voi dite praticamente, per quello che tu dici, è fatalismo? No, esattamente il contrario. Qui non c'è un problema di fatalismo, c'è un problema di determinismo. Cioè tutti parlano di crisi sistemica, ma tutti dicono ad essa, al modo di produzione capitalistica in quanto modello, non c'è alternativa. Io vorrei dire, guardate, quello che voi proponete è la catastrofe. Tanto è vero che si stanno sviluppando movimenti che prendono coscienza della drammaticità cui siamo arrivati e si cominciano a mobilitare. Ecco, questo libro, più che alla nostra generazione, vuole essere uno stimolo, un allarme verso le future generazioni. E qui ho finito. A domande eventualmente rispondo o rispondiamo, specie se provocatorie. Quando ha raccontato di Nixon che va, me l'ha raccontata male, nel libro ho scritto meglio. Perché allora, No, 70-72, c'era di moda il libretto di Mao, i pensieri, tutti di Mao, eccetera. Quando arriva Nixon, glielo dice il napoletano, come gli dice? No, c'ha ragione, devo dire la verità, anche perché, guardate, il caro Renato, al quale io ho da ringraziare tre persone, lui fra queste, il caro Renato, quando io gli ho mandato il libro, dice, guarda, quella battuta vale tutto il libro, cioè... Voi immaginate Nixon che arriva e il napoletano dice: guarda, mo te faccio una segna, così te li avresti pensieri a capo. Non so se è chiaro. Ora, detto in questo modo, il napoletano va detto, no, c'ha ragione Renato, Renato, bravo, va detta questa cosa, perché in realtà quella barzelletta, in realtà, è una sintesi straordinaria di un momento storico in cui gli americani avevano necessità di investire e i cinesi avevano necessità di incamerare investimenti. Questa è una verità. I napoletani, bisogna dirlo, con quella barzelletta furono geniali, perché riuscirono proprio a coniare una tesi perfetta per quel momento. E quindi ce n'è un'altra, ve la racconto così, giusto per è quella del dopo terremoto, perché a Napoli nell'80-81, quando ci fu il terremoto, furono arrestate 3 persone, Calce, Cemento e Ferro, Renato, in carcere a Poggio Reale praticamente. La Calce diceva: ma io che ci posso fare? Io sono un collante, non potevo reggere una struttura. Cose. Il Cemento dice: sì, tu sarai collante, io posso soltanto rafforzare la colla, ma non è che posso fare altro, insomma, che potevo fare rispetto a... Il Ferro interviene e dice: guardate, sono problemi vostri, perché io non c'ero. tanto per dire, queste cose io le racconto per una ragione molto semplice, perché è vero che sono battute e barzellette, in realtà però colgono il momento, colgono le contraddizioni, colgono i fatti, va bene, e li esplicitano con chiarezza. Questa è un poco la cosa. Tra le altre cose racconto anche di due straordinari personaggi del mondo del calcio, sul quale, guardate, invito a leggere il mio libro, ma non perché l'ho scritto io, ma perché si fa a leggere. Zeman e Petrini, due mondi diversi, arrivano proprio alle stesse considerazioni. Questa cosa è importante, cioè, quando, proprio perché, per quello che noi abbiamo detto e cercato di dire, cercato di sostenere, cioè che di un capitalismo diverso, ci siamo illusi, non è così. Sono leggi impersonali. Quando si dice modello si intende che si pensava che lo sviluppo delle forze, cioè quel processo storico che veniva interpretato sviluppo delle forze produttive, poteva essere condotto a un modello ideale di giustizia e di uguaglianza. Non è possibile. Questo fa questo elemento, il comunismo ideale è sopraffatto da un percorso che andava in un'altra direzione, e ci siamo raccontati per balle per anni che se questo non è successo, non perché ci sono delle cause che l'hanno determinato in quella direzione, ma perché c'è stato il tradimento dei capi, c'è stato il problema il revisionismo del marxismo, perché c'è stato i grumiri. Voi sapete da dove viene il termine grumiri? A me la rivolta di George Floyd mi ha spinto una serie di elementi di curiosità. Io ho scoperto che non c'è peggior termine, che uno dei termini più razzisti è crumiro. I crumiri erano le popolazioni, diciamo, berbere del Marocco, quando la Francia ha cominciato, in virtù del debito che l'impero ottomano aveva nei confronti della Francia, dell'Inghilterra, ha dovuto cedere, no? Marocco, Egitto, Tunisia. I francesi chiamavano crumiri fondamentalmente prima queste tribù e poi tutti i marocchini e poi tutti gli arabi. Rapidamente il termine crumiro era fondamentalmente nella Francia di metà 800 e verso la fine del 1800 il termine dispregiativo con cui si chiamavano gli arabi. Razzista. Il termine crumiro compare nel movimento operaio nella prima volta sulle pagine dell'Avanti di fine 800. Si usa il termine crumiro e crumiraggio per indicare un fenomeno di fatto diverso. L'Europa aveva una immigrazione intraeuropea che creava concorrenza sul mercato delle braccia e, come è successo per esempio a Marsiglia, scontri tra operai di diverse nazionalità, francesi e italiani in particolar modo. Quindi il crumiro, che è un termine razzista, viene utilizzato per descrivere fondamentalmente l'effetto della concorrenza, della competizione del mercato intraeuropeo. ed ha un'origine razzista. E questo è interessante capire, perché poi, diciamo, va a permeare un termine del razzismo, del colonialismo, un aspetto che dovrebbe dare dignità di un movimento operaio, che poi però, quando si sviluppa, è eurocentrico e razzista. Basta pensare a Soumaoro. Perché poi quei movimenti, ovviamente, rispetto ai comportamenti delle nazioni europee nei confronti delle colonie, era un comportamento che soggiaceva al razzismo, no, dell'uomo bianco nel rapporto coloniale. Questo lo dicevo perché questa è parte, no, dell'illusione che avremmo potuto cambiare il corso. Ora non si tratta di ragionare, di vedere il percorso di un momento e perché si è inceppato. Se si è inceppato, come sosteniamo noi? Una cosa sulla quale mi voglio soffermare un attimo soltanto, perdonatemi, è questa. Avremmo seguito sicuramente l'affare Soumaoro, questo povero disgraziato e così via, candidato poi con... Ora, collegandomi a quello che diceva lui a proposito del crumile, crumilaggio e così via, vedete, noi siamo abituati a criticare, no, il corrotto, ad additarlo, no, perché è corrotto. Ma chi lo corrompe ha o no una responsabilità? E fra i due, chi è il vero responsabile? Il corrotto o il corruttore? Cioè, mettiamoci un po' d'accordo. Dice, quell'operaio è un crumiro, va bene? Io ho lavorato in una ditta di pulizie, la Roma Multiservizi. Non vi meravigliate, una ditta, facevo le pulizie in una scuola. No, e mi è capitato di andare a fare il picchetto perché nel cambio appalto alcune lavoratrici venivano espulse ed altre dovevano entrare. Ora, te la prendi con una lavoratrice che è pari a te e che lotta come te, additandola come crumira perché vuole entrare a lavorare? Cioè, noi a questo siamo arrivati. Cioè, noi del... Guardate, c'è una espressione che io uso spesso con lui, che è questa. Quando io dico noi, una critica vera, radicale al modo di produzione capitalistico non è stata ancora prodotta. Noi la stiamo appena, con la sua crisi oggi, tentando. Non che io e lui siamo quelli che finalmente hanno fatto una critica al modo di produzione, no, ma una vera, severa critica radicale al modo di produzione capitalistico è ancora tutto da scrivere. Ci siamo, e c'è la possibilità che la svolgerà questa critica al modo di produzione stesso, e noi saremo travolti se non cominciamo a ragionare a questi livelli, in questi termini. Ed è complicato, lo so, guardate, è complicato, sono pugni nello stomaco, lo so, ma questo è, acca non si scappa, questo è, non c'è niente da fare, noi continueremo a stare nelle lotte sempre, lotta contro il razzismo, se... Guardate che cosa sta succedendo, lo citava prima lui, Alessio, genocidio di Israele. Io ho scritto, non vi meravigliate, ho scritto che Israele, niente è eterno, è destinato a soccombere. Noi diciamo che è destinato a soccombere lo Stato di Israele e sarà distrutto dalla crisi dello stesso sistema di cui si è fatto artefice, ha contribuito a essere artefice. Tra le altre cose, Io ho scritto che sulla questione dello Stato di Israele sia chiara anche questa cosa qua, che aveva ragione Asor Rosa, che sono passati da vittime a carnefici, ma è vero anche un'altra cosa, che il sionismo, cioè una parte degli ebrei praticamente, ha scelto questa strada a suo tempo, quando è stato scoperto il petrolio, e in tutto il Medio Oriente, che è ricco di petrolio, è stato messo lo Stato di Israele a protezione degli interessi imperialistici dell'Occidente. E questa è la questione. È questa la questione. Può non piacerci, ma è questo. È questo. E ora praticamente lo Stato di Israele, in questo genocidio di cui si sta rendendo responsabile, poi dovrà pagare il conto alla storia, e gli ebrei dovranno confrontarsi tutti, non con il fatto di essere ebrei, ma si devono confrontare con lo fatto che il loro Stato, e che gli occidentali tutti, gli imperialisti occidentali tutti, li stanno mandando al massacro, e devono decidere, sì, devono decidere. Devono decidere. Questo è il problema. Non c'è, guardate, la storia presenta il conto in maniera inesorabile. Questo penso io, questo pensiamo noi. Lo diciamo con molta tranquillità, con molta onestà. Grazie. Metti di qua. Devi parlare. No, perché vai. No, devo dire che in queste esposizioni si nota un'inversione di quella che negli ultimi decenni è stata un po' la teoria corrente in campo marxiano o marxista. Mi riferisco alla teoria operaista, cioè quella che viene da Quaderni Rossi, Panzieri, eccetera, eccetera, che è stata comunque sicuramente innovativa, secondo me, no? Cioè, in questa teoria la lotta operaia, o per meglio dire la soggettività operaia, è un fattore di sviluppo del capitalismo, cioè spinge il capitalismo stesso a, si diceva, ristrutturarsi, quindi a svilupparsi in una forma superiore. Cioè, quella che era la fine della catena di montaggio, che era stata praticamente distrutta dalle lotte operaie e dell'operaio massa, doveva dar luogo alla fabbrica automatica. C'erano i progetti di fabbrica automatica, cioè senza, praticamente quasi senza lavoro. La Zanussi di Pordenone l'aveva fatta, il progetto Saturn, adesso non mi ricordo chi l'aveva fatto. Dopo un po' di anni questi progetti furono abbandonati perché costavano troppo. Cioè l'introduzione di, come diceva anche Alessio, dell'intelligenza artificiale nella produzione ha un costo elevato, l'aveva detto lui, e quindi diciamo non consentiva di produrre da un punto di vista capitalistico questo sviluppo verso la fabbrica automatica, che non c'è stato al momento. C'è stata quella che hanno chiamato globalizzazione, era il diffondersi del vecchio fordismo più o meno nelle aree periferiche del capitalismo, compresa la Cina. Quindi questo è uno dei fattori che Marx aveva già previsto, cioè quando lui parlava della crisi capitalistica, non quella diciamo congiunturale, ma quella più importante dei grandi cicli del capitalismo, la caduta tendenziale del saggio di profitto, veniva confermata, cioè quando si aumenta il capitale fisso, quindi, materie prime, mezzi di produzione, aumentano il costo, eccetera, la difficoltà di valorizzare attraverso estrazione di plusvalore può anche aumentare la massa del profitto, però la capacità di valorizzazione del capitale iniziale tende a diminuire. Questa è una legge generale. Poi è subentrato quindi questo è un primo fattore di crisi. Poi ne è subentrato un altro, che qui è stato accennato, però secondo me ha un'importanza: la speculazione finanziaria. La speculazione finanziaria, non il capitale finanziario, che è un'altra cosa, cioè proprio l'impiego massiccio di capitali che provengono dal capitale produttivo in forme speculative, che diciamo sono state quello che è il mercato finanziario, che si svolge a livello mondiale in termini di pochi secondi, no? Cioè si compra, si acquista, e con questo c'è chi aumenta il capitale monetario, non il capitale complessivo. E questa andazzo del capitale, che è cominciato negli anni '80, dopo la fine della grande crisi degli anni '70, non ha una soluzione, cioè per andare avanti necessita sempre di nuovo capitale che dal capitale, diciamo, investito produttivamente passa nella speculazione. E chi è che compie questi passaggi? Sono le grandi corporation americane o di tutto il mondo, adesso non voglio far pensare che siano solo gli americani, cioè le grandi corporation. Abbiamo visto in Cina, la Evergrande è fallita, cioè in Cina, che sarebbe ancora, diciamo, dicono, in una fase di sviluppo industriale, in realtà c'è una presenza grossa di capitale finanziario nel settore immobiliare, c'è una bolla che non finisce mai, hanno costruito città intere e sono vuote. No, battono i palazzi, quelli in più, eppure li fanno. Quindi diciamo passaggio di un capitale che dalle grandi corporation, che sono, diciamo, passano proprio per cercare di recuperare sui profitti nel settore finanziario, nella speculazione, e un altro, oltre a quello che avevo detto prima, del costo del capitale fisso degli investimenti, è un altro fattore di crisi capitalistica che quindi blocca lo sviluppo. Adesso non so quanto tempo ci vorrà perché la gente se ne accorga, adesso gli operai, i lavoratori se ne accorgano, però secondo me ci sono delle premesse che in un termine di tempo che non è quantificabile, penso che arriveremo a prospettare delle nuove soluzioni. Grazie. Nella presentazione che io feci in provincia di Napoli il 3 novembre ci fu un ex consigliere provinciale del PC, Partito Comunista Italiano, il quale, laureato, professore e così via, quindi non il quale praticamente fece questo tipo di obiezione, dicendo: sì, però in realtà il capitalismo ha dimostrato che diciamo così, si può passare da una rivoluzione all'altra dei mezzi di produzione, no? Un po' come diceva pure Alessio prima. E questo può permettergli di durare in eterno, in buona sostanza. Ed è una posizione, diciamo, è la posizione che poi, diciamo, da un punto di vista politico è quella dei Fukuyama, no? Dice: vabbè, guardate, morto il comunismo, morta l'URSS, l'89, una storia e l'altra, non c'è più storia. Noi diciamo no, non è possibile stabilire una infinità, una sua non finità di un movimento storico. Non è, cioè l'ipotesi che qualcosa possa essere infinito è sbagliata, diciamo noi. Il movimento storico è qualche cosa che nasce, si sviluppa e muore per le proprie leggi, come diceva Giordano Bruno, cioè qualche cosa che matura dal suo interno. Quindi noi non possiamo ipotizzare, diceva quella famosissima Rosa Luxemburg, diceva, guardate, e lo stesso concetto poi viene ripreso da questo Gotti tedeschi, diceva, guardate, la moneta non figlia valore. Quindi o si può produrre ancora valore, oppure questo sistema è destinato a decomporsi, a scoppiare. Non c'è sta niente da fare, per le proprie leggi, non perché scendiamo in piazza noi, per proprie leggi. Poi dovremmo anche scendere in piazza, ci mancherebbe, e fare il nostro dovere, no, essere al nostro posto, svolgere il nostro ruolo, questo è fondamentale. Ma sono i due fattori che si combinano, non in quanto soggetto che si separa dal resto della società e dall'assalto alla società, no, si decompone la società e dalla sua decomposizione si sviluppa, diciamo così, il movimento che lo affosserà definitivamente. Ma noi dobbiamo essere pronti, preparati, incominciare a crederci, non come Mark Fisher che scrive è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Questa è la questione di fondo, questo è il problema che noi oggi poniamo. Noi abbiamo predicato il comunismo mentre cresceva il capitalismo, e oggi che il capitalismo è in crisi storica, noi che diciamo? Che è eterno, ma che cazzo diciamo a loro? È così o no? Cioè, veniamo a bomba del problema. Cerchiamo di capire, è questa la questione che stiamo ponendo. Allora voi vi scoraggiate, siete scoraggiati, per chi è scoraggiato andatevene a casa, statevi zitti. State zitti almeno, evitate di dire scemenze, anche su Israele, evitate di dire scemenze, anche su Hamas, evitate per favore di dire criminalità. State zitti, fate prima, è meglio, zitti. Lasciate fare a chi vuole fare, con argomenti veri. Questo è il problema. Noi vediamo la crisi del modo di produzione come unica vera possibilità questa volta di farla finita col capitalismo. Questa è la verità, né più e né meno. Ho due domande da porvi. La prima sull'inizio e la seconda sulla fine. Condivido gli accenni che ha fatto Alessio a proposito della crucialità di quanto avvenuto negli Stati Uniti a seguito dell'uccisione di George Floyd. Anch'io con altri compagni ho cercato di ragionare e recepire i contributi dei compagni americani che hanno partecipato a quel semestre abbondante di mobilitazioni dove si sono viste forme di presenza in piazza e di azione molto diversificate, un rimescolamento delle presenze sociali, un superamento tendenziale della linea. Momentum, come lo chiamano loro usano questo termine, un momentum. Un momento, sì. Momentum. E quindi condivido molto. sostanzialmente la valutazione che è in occasioni del genere che può riaprirsi a livello sociale l'interrogativo che poi si articola in tante domande su come vivere diversamente, come rapportarsi con l'esistente, con lo Stato, con i suoi apparati, con i modi di riproduzione della vita sociale. Ecco. E, questo al di là del fatto che, come ogni movimento, ha un corso ondivago, appare, si inabissa nuovamente, ricomparirà. Tra l'altro, nella riflessione di alcuni di questi compagni sono emerse delle domande molto, molto pregnanti su che cosa si può fare quando un movimento va a scemare, come si può vivere in maniera non luttuosa e non ripetitiva, non iterativa quel corso. E così ci sono altre situazioni un po' in tutti gli angoli del mondo che pongono e ripongono domande simili. Ecco. Io però volevo porvi, come accennavo all'inizio, due domande, perché è abbastanza chiaro l'ordine del ragionamento e quindi la centralità della questione del determinismo storico l'assiomatica di movimento di un certo modo di produzione. Ma come vedete il processo storico che porta all'affermarsi di un certo modo di produzione? Cioè il determinismo storico che quando un modo di produzione si è affermato, si sta espandendo e poi arrivando alla sua conclusione è effettivamente fondamentale, ma nel momento in cui questo modo di produzione inizia ad apparire, a affermarsi in certe aree del globo, come vedete il processo? Per intendersi, esistono diversi studi attuali o comunque recenti che si interrogano al riguardo, da quelli di James Scott sull'affermarsi sostanzialmente dell'agricoltura e dei sistemi di dominazione collegati o un altro lavoro come quello di Graeber, il suo amico etnologo, che è stato pubblicato in Italia col titolo All'origine di tutto, mi sembra che si intitoli così. Sostanzialmente entrambi questi lavori mostrano una grossa attenzione a tutto quanto gruppi umani consistenti in varie parti del globo hanno fatto nell'intenzione di non andare a finire dove poi si è andati a finire. Ecco, come vedete la questione dell'origine dei modi di produzione, perché esiste storicamente una certa categorizzazione che è basata sull'idea di determinismo economico-tecnologico legato all'affermarsi di questo modo di produzione. Esattamente un'idea di tipo sviluppista. Allora, un nuovo modo di produzione sviluppa le forze produttive in una maniera tale, prima l'agricoltura e poi altre, e si impone. Però ci sono visioni, anch'esse fortemente materialistiche, che articolano diversamente la questione. Ecco, volevo sapere come considera, perché nel libro mi pare non si tratta di questa di no. Questo prima, ecco, come vedete la questione. La seconda domanda invece è sulla fase conclusiva, cioè sull'oggi. Esiste questa assiomatica, queste leggi di movimento ineluttabili all'interno, ma nel momento in cui si inceppa questo meccanismo, il sistema sostanzialmente fatica a riprodursi, a riprodurre le sue condizioni di possibilità, quello che un tempo si chiamava la coscienza, che fosse di classe o di specie, ecco, come vedete il rapporto tra, che poi è un termine classico del pensiero rivoluzionario, il nesso tra crisi e processo rivoluzionario, come che anche questa parte qui, che tu richiami come necessità, ha una certa possibilità di categorizzazione o un'altra, o è vero che una grossa parte del movimento operaio di fatto ha richiesto una democratizzazione del modo di produzione stesso, però non l'intera storia della nostra classe nelle sue è riducibile a questo tentativo di metterci una pezza e partire. E quella è un'idea che Marx sicuramente ha avuto fortemente, non è stata però l'unica idea che lo stesso Marx ha pensato e cercato di praticare. In realtà Marx, come tutti i rivoluzionari, secondo me, le ha tentate un po' tutte, ed è difficile trovare una continuità logica nei suoi scritti, perché in realtà sono, come sempre nell'attività teorica dei militanti, un tentativo di leggere un certo passaggio e cercare un qualche cosa che possa svoltare, no? Però non c'è dubbio alcuno, secondo me, che il Marx del 47-48 ha ben poco a che fare con il Marx che punta sullo sviluppo del movimento operaio come base di socializzazione di un'idea trasformativa. Questo secondo Marx troverà poi il suo compimento nella socialdemocrazia, nei grandi partiti di massa, nel movimento operaio organizzato, eccetera, ma non c'è stato solo questo. In vari momenti, secondo me, delle minoranze, ma anche delle espressioni significative sul piano della consistenza, hanno cercato delle altre vie in maniera più o meno efficace e forte, però non si può, secondo me, fare riferimento soltanto a quella scuola di pensiero che è derivata sostanzialmente dalla rivoluzione russa, perché la rivoluzione russa è stata un fatto molto importante, ma nella storia europea la rivoluzione tedesca ha posto dei contenuti sicuramente più avanzati e ha visto in una maniera diversa, sostanzialmente diversa, i rapporti che si danno tra vari momenti dell'esistenza proletaria, cioè l'attività lavorativa, la riproduzione sociale, i rapporti sessuali, l'educazione, la scuola. Io credo che, chiudo qui, in un momento come questo, in cui si tratta di effettivamente aprire nuove vie, una riflessione in cui vengano recuperati e valorizzati questi momenti discontinui della produzione rivoluzionaria, della soggettività, che non sono riducibili alla connotazione sociale di quegli uomini e di quelle donne, cioè le idee degli artigiani dell'ala sinistra della rivoluzione francese non sono riducibili al mestiere che facevano, ma possono essere compresi soltanto dentro una relazione sociale che era sì radicata nell'esistenza di un mondo popolare che oggi invece non esiste più, ma si richiamava anche e valorizzava dei momenti del pensiero antagonista precedente, delle visioni utopiche, delle aperture che invece, secondo altre scuole di pensiero, sostanzialmente erano destinate a esaurirsi, a essere sconfitte. Certo, è stato così, ma il rischio di un determinismo dei risultati è da tenere in conto. Cioè, noi dobbiamo, secondo me, riuscire a riconnetterci, sentire vicini come fratelli e storia di tutti quegli uomini, quelle donne, quei vecchi, quei giovani, quei ragazzini, Gavroche per dire, che hanno cercato di vivere in una maniera diversa e che non hanno soltanto fatto delle cose ma hanno pensato delle cose diverse fuori dai binari del consentito e negli spazi che la crisi di riproduzione del capitale oggi apre, rigiocare queste carte. Ecco, io volevo domandarvi come vedete appunto questa articolazione tra crisi e produzione e aspirazione a un mondo altro, così come la prima domanda invece sul come intendete l'affermarsi di un certo modo di produzione e tutto il suo peso umano. A me ha colpito molto, soprattutto nel libro di Scott, il fatto che da una parte non vengano idealizzate dei tentativi diversi, ma dall'altra si porti sempre in evidenza il fatto che in realtà gli uomini del tempo sapevano cosa sarebbe accaduto, cosa comportava vivere in una certa maniera e hanno agito spesso ad esempio abbandonando fisicamente le aree controllate dallo Stato e in cui vigevano certe leggi economiche questa utopia praticata coi piedi la si ritrova, in vari passaggi decisivi della storia. Ad esempio anche nella guerra civile americana è stato messo in evidenza come i neri hanno manifestato cosa pensavano del regime schiavistico andandosene, no? Ecco, un po' questo l'ordine di... mi rendo conto che sono due domande belle impegnative, però... Allora, sulle origini è complessa la cosa. Però noi siamo partiti, almeno io sono partito, noi siamo partiti da un presupposto. C'è un certo Streck, un famoso analista, sociologo e quant'altro, della scuola di Francoforte, il quale scrive, arrivato a un certo punto, un libro di 340 pagine titolato Come finirà il capitalismo. Quindi parte da un assunto, cioè finirà il capitalismo. Come? No? Qual è però alla fine la sua conclusione? Dice, per evitare che crolli il capitalismo è necessario raggiungere una sorta di equilibrio tra i bisogni delle persone e i bisogni del capitale. Questo grande scrittore, analista, sociologo e quant'altro, del modo di produzione capitalistico, per arrivare a questa sintesi, vuol dire che non ha capito niente. E noi non dobbiamo avere vergogna di dirglielo in faccia, nel muso, che non ha capito niente. Giorgio Ruffolo, famoso economista, socialista, anche una persona per bene, lui disse: il capitalismo ai secoli contati. Poi però, per evitare che il capitalismo abbia veramente i secoli contati, bisogna trovare delle correzioni al modo di produzione capitalistico. Noi ribadiamo che le leggi sono leggi impersonali che non si possono correggere, è per questa ragione che il capitalismo crollerà. È chiaro il concetto? È questo. Chi vuole misurarsi si deve misurare su questo, solo su questo, non su che cosa sarà, perché sul che cosa sarà noi non facciamo gli osti della storia, noi non facciamo questo. Noi diciamo queste leggi obbligano questo sistema sociale al crollo. Questa è la tesi di fondo. Dopodiché, che cosa succederà? Guardate, strada facendo. Io l'ho sperimentato con i disoccupati. Noi a un certo punto siamo andati ad occupare le case sfitte, poi siamo andati ad occupare gli alberghi, poi siamo andati ad occupare... Addirittura quando poi la destra minacciava di organizzare i proprietari delle seconde case a Baia Domizia, noi abbiamo detto vabbè, andiamo lì e ci scontriamo, qual è il problema? Noi li andiamo a occupare, perché la storia non la si anticipa, la storia la si vive, e questa è la differenza tra il determinismo e l'ideologismo. Questa è la questione di fondo che si sta ponendo con questo libro. Né più e né meno. Io potrei fare tanti altri esempi. C'è un famoso libro in cui dice: se non si corregge il modo di produzione capitalistica siamo fottuti. Addirittura si parla di decrescita felice, compagni cari, decrescita felice. Cioè chi la dovrebbe governare questa decrescita felice? Cioè si è pazzi, si è folli, si è stupidi, non si ha la forza di affrontare, va bene, di affondare in profondità le ragioni del modo di produzione, le leggi fisiche che la regolano. E questa è la questione che noi stiamo ponendo. Se non è questo, abbiate pazienza, perdiamo tempo. Noi è questo che stiamo ponendo. Guardate, non c'è soluzione, non c'è nessuna possibilità, e neanche anticipare come faceva Gorsch. Gorsch, un compagno che certamente i compagni più anziani fra di noi lo conosceranno, ha scritto dei geroglifici, ha disegnato su come sarebbe stato organizzato i futuri soviet e così via, stupidaggini, sciocchezze, pensieri fra le nuvole. Questa è la questione che noi stiamo ponendo. Noi stiamo dicendo in maniera semplice: questo sistema è in questa fase, in maniera definitiva, in crisi. Ci dobbiamo organizzare, attrezzare ad avere un ruolo diverso da quello che abbiamo avuto per il passato. Mi rivolgo innanzitutto alle nuove generazioni. Questa è la questione con questo libro. Ci riusciamo? Non lo so, non mi interessa, non è questo. Noi poniamo un punto fermo sul problema. Non ci sono possibilità di correggere queste leggi. Io volevo dire questa cosa. Allora, sulle origini. Devo andare in bagno un attimo. Il determinismo non significa che è una formula meccanica che, date le condizioni di spazio e di tempo, si ripete nella stessa identica maniera. Ok? E quindi è ovvio che a condizioni diverse, in tempi diversi, in spazi diversi, i gruppi sociali, i gruppi umani hanno tentato cose diverse, e chi è arrivato nel rapporto fondamentale, nel rapporto tra la natura, cosa ci dà la natura, la necessità di sopravvivere e di riprodursi e di produrre, determina cose diverse. Uso la questione della donna perché penso sia importante, perché la questione che si sta ponendo della donna in questi giorni, a partire anche dai femminicidi, Giulia Cecchettin, quello che ha detto Giulia Cecchettin, è un riflesso della crisi che afferisce alla riproduzione sociale e al ruolo al quale si vuole subordinare la donna. Ok? C'è una regione dello Yunnan in Cina dove ci sono i Muos, non so come si pronunci, dove sono un gruppo di 50.000 persone ed esiste ancora il matriarcato, cioè ossia un'organizzazione sociale matrilineare dove le donne organizzano la società, l'economia, lavorano la terra in agricoltura insieme agli uomini, i figli hanno come riferimento la madre o la madre del clan è il capo del clan, le famiglie sono tra diversi clan, ma hanno come riferimento la donna e, attenzione, i figli, essendo di madri lineari, sono di proprietà, hanno riconosciuto, diciamo, la legittimità in quanto figli di una madre. I padri dei figli non vivono con i figli e con le donne con le quali hanno procreato dei bambini, e i figli sono allevati dai fratelli delle madri, ossia il compito della crescita e formazione dei figli la fanno gli zii, quelli che noi chiameremmo zii. Cioè, allora c'è una possibilità diversa a quella che poi viceversa ha dato la struttura patriarcale. Ci dicono una cosa però, da quello che ho letto, che questa curiosità storica dove un gruppo sociale di 50.000 persone in una regione specifica della Cina, specificamente isolata, negli anni dopo la rivoluzione cinese, su iniziativa di Mao Zedong, provarono a fornire dei contributi affinché potessero sviluppare la proprietà privata della terra, quindi allettare alcuni contadini maschi, dove il maschio viveva tranquillamente in una situazione in cui l'organizzazione sociale è determinata dalle donne, amministrano loro, noi ci occupiamo anche e prevalentemente, oltre alla lavorare terra, a crescere i bambini che sono delle madri. Ha provato a finanziare per allinearli, ma ovviamente questo è un gruppo sociale lontano che ha mantenuto ancora oggi una struttura sociale matriarcale. 50.000 persone. Il caso vuole, ma chissà perché, che questa cosa oggi, che si viene conosciuta negli ultimi 10 anni, anche per gli interessi che ha la Cina, perché la Cina è vista come, diciamo, quasi la locomotiva, l'opificio del mondo, attira curiosità e attira turismo. In questo villaggio, in questa zona, è improvvisamente apparso il turismo. E a fronte del turismo, questo gruppo sociale sta cominciando a vivere che può campare anche attraverso il turismo e non solo tramite l'agricoltura, e vivendo attraverso il turismo si comincia a registrare le prime differenze tra famiglie più ricche, matrilineari, e altre famiglie. Che cosa ne verrà fuori? Non lo so. Ma questo ci dice che il rapporto legato alla produzione e allo scambio determina delle condizioni nuove che poi, quando avvengono, possiamo studiare che cosa le ha causate, non prima. Quindi non possiamo prevedere che succederà a queste 50.000 anime in un'organizzazione sociale matriarcale, in una regione specifica remota della Cina, quando il turismo e il fatto che avranno sperimentato che possono arricchirsi attraverso il turismo e quindi la funzione dell'organizzazione familiare in virtù dell'attività produttiva principale, che è quella dell'agricoltura, entra con lo scambio, con l'esterno, che cosa verrà fuori? Lo vedremo. Ma questo ci conferma che cos'è il determinismo, non una regola generale, che quindi che meccanica oppure data da Dio. Su quello che vedremo per il futuro, tu hai fatto bene a citare la questione del movimento di George Floyd. Ne parlavo prima con un compagno prima della riunione. ovvio, quello, il movimento di George Floyd è stato un qualche cosa di inaspettato e probabilmente inedito, perché non solo noi lo scriviamo, no, nella prefazione scritta ad aprile, che abbiamo già assistito in questo tempo, no, i rumori di pesanti cristallerie che crollavano negli Stati Uniti d'America e anche nello stesso Israele. Lo citiamo in prefazione al libro. Questo ad aprile. Perché quello che è successo a ripetizione è stato di eccezionale per certi aspetti. Nel vortice di questa mobilitazione, ovviamente dei militanti, dei compagni probabilmente negli Stati Uniti d'America, ma simili a noi, alcuni sono arabo americani, un altro è un ispanico americano, un altro è un indiano americano, poi ci sono gli afroamericani che si sono messi insieme da un comune punto di vista, cioè il punto di vista degli sfruttati in azione, a porsi le domande su cosa succederà dopo, nel momento che il movimento è rifluito. Nel momento che il movimento è rifluito, hanno sicuramente individuato le novità di quello che è stato, la continuità con il passato, e si sono posti le domande del momentum di questo movimento di lotta, sulle quali poi si è incagliato e necessariamente rifluito. Un movimento di lotta nasce, sorge, si pone le domande, e si pone solo le domande che si può porre, certo, non altre. Questa è la questione. Un movimento si confronta solo con le domande che si può porre, ossia le domande che hanno delle possibili soluzioni. L'obiettivo di questi compagni, che si chiamava Spirit of May 28, hanno mantenuto viva una discussione, innanzitutto per affermare che c'è stata una vera rivolta di un proletariato meticcio, per ragioni legate al razzismo, ma che mostrava anche che delle condizioni materiali si sono inserite nella società americana, che la portano sul binario di una guerra civile più estesa e su un binario in cui comincia a sgretolarsi uno dei fondamenti dell'eccezionalità degli Stati Uniti d'America, ossia la supremazia bianca, la bianchezza in nuove generazioni. Detto per inciso, chi ha preso le pene peggiori per i fatti della quella caldissima estate sono giovani bianchi di 18-19 anni. Questo significa che erano lì a commettere a fianco a dei sfruttati afroamericani, giovani, giovanissimi, a fare le stesse cose contro la polizia. Poi sappiamo i riflussi eccetera. Questi compagni sono opposti, visto che si sono, abbiamo, le cause sono state queste, le necessità sarebbero quest'altre, dobbiamo porci il, trovare il programma utile a rispondere a parte delle domande che si sono poste in quel momento e hanno scommesso su questo progetto, e molto più intelligentemente di noi, quando hanno visto che quel movimento, così come era sorto, non si ripresenta, e di fronte alle stesse contraddizioni che si sono ripetute l'anno dopo, un anno e mezzo dopo, non si sono ripetuti gli stessi fatti, hanno detto: non ha senso quello che stiamo facendo. Se il nostro presupposto è che noi lavoriamo per un programma capace di rispondere alle domande di un movimento passato, sbagliamo, perché le condizioni che si ripresenteranno e si ripresenteranno porranno domande diverse. E faccio un esempio della storia anche. Prima della NEP nessuno immaginava la politica della NEP nel rapporto città e campagna. Perché una delle questioni che si riproporranno ma non potranno essere risolte attraverso la NEP, è il rapporto città e campagna, che è uno degli aspetti fondamentali. La città produce qualcosa che serva alla campagna, la campagna produce per sfamare la città, in un rapporto anche conflittuale nella storia. Dire che oggi noi possiamo intravedere come si dipanerà e quali domande, quali programmi, avere un programma all'occorrenza, è impossibile. Non ha senso. È impossibile, è ideologismo. Si vende il fumo. Quindi non si tratta del... E cosa succederà? Noi, quando mica dice caos, catastrofe, noi vediamo una serie di momentum, di rivolte improvvise, generalizzate, di diversa natura, che capiteranno nel tempo, ma che si tengono per mano. Quei giovani che hanno salutato i colpi di Stato nel Sahel a furor di sostegno popolare, possiamo dire che ci sono stati dei colpi di Stato come riflesso agente di un odio crescente contro il colonialismo europeo, occidentale, americano e prossimamente anche nei confronti dei cinesi, ha prodotto un colpo di Stato. Il Sahel sono paesi che prima il colonialismo e poi il neocolonialismo ha ridotto i più fragili dell'Africa, e quelli che sono stati scamazzati non hanno neanche la forza di difendere, di avere un... Il colonialismo ha inventato degli stati e dei confini. Le nazioni che si sono liberate dal colonialismo non potevano che ereditare i confini imposti dal colonialismo storico per 5 secoli. E chi ci ha provato? Lumumba? Esatto. Non ci è riuscito. No? Il panafricanismo non riusciva a di sgretolare questa cosa. I paesi del Sahel non sono i paesi per cui la crisi come è stata ridotta, soprattutto dopo il 91, il 2003, il 2012 della Libia, quelli più esposti neanche ad avere il brandello di tenuta unitaria di un paese che ha dei confini tracciati, perché a questo sono stati ridotti. In una crisi spaventosa, una popolazione dove il 70% è composta di ragazzi di 18-24 anni, chi può, come si costituisce una nazione che si vuole liberare, no? Dal colonialismo, dall'imperialismo? Cosa ci vogliamo immaginare? Che possa avvenire, proletari di tutto il mondo unitevi, capiamo che ci sono interessi diversi. Guardate, non mi stupisco che la ribellione, un moto che sottotraccia, chiama la necessità di cacciare a calci in culo gli europei e gli italiani dal Sahel e i francesi, si dia attraverso un golpe militare, però sostenuto da una mobilitazione popolare. Andatevi a vedere le immagini di quello che, come è stato accolto il comandante del Burkina Faso, un ragazzo di 34 anni che è da semplice comandante di un battaglione, è diventato ora il presidente del Burkina Faso e che è tornato al ritorno dal summit. Come può? Io non mi stupisco che quando tutta la storia dell'Europa e delle nazioni europee si sono date, le nazioni europee, quelle dove viviamo noi, si sono date attraverso i golpe militari fatti dai militari. L'esercito è il primo elemento costituente di uno Stato. Gli Stati nazionali in Europa come si sono dati? Intorno a una corona e a un esercito, al comando del re. Shmoko, ci dobbiamo stupire che il Sahel, attraverso un sostegno popolare, però siccome è un sostegno contro gli imperialisti, a noi ci fa schifo. Quegli eventi si la sinistra guardano a quei giovani, guardano e si rapportano all'immagine delle ribellioni degli Stati Uniti d'America. Quando nel 2021 i giovani palestinesi nelle città di Israele si sono rivoltati, sì, e gli atteggiamenti che avevano i neri in America vedevano dei simili nelle sembianze, negli aspetti, nei comportamenti, nella modalità di sfidare la polizia israeliana. La stessa cosa succede nel Sahel, cioè sono momenti di ribellione che si tengono per mano. Il filo comune è una crisi del modo di produzione che genera queste rivolte. Nanterre non è la ripetizione della rivolta di Minneapolis, ma sono anelli di moti discontinui di rivolte generalizzate. E io qui vi dico, il giorno del 25 novembre, tornando a casa dalla manifestazione delle donne con un sentimento di commozione e rabbia, perché quella manifestazione mi trasmetteva commozione e rabbia delle donne, e ne commentavamo io e Michele quando stavamo in piazza lì a Circo Massimo, dice, ma prima o poi questi non... arriverà un momento in cui queste sfilate delle donne capiterà un qualche cosa, che smetteranno di scrivere mamma se non torni a casa dai brucia tutto. Io una ragazzina di 18 anni, 19 anni, gli devo dire, ma brucia prima tutto tu, piuttosto che aspettare che lo faccia mamma quando tu non torni. Prima o poi si porrà questa questione. Torna a casa la sera, un piccolo episodio, e io ho scritto, ah, mo sì, un gruppo della manifestazione composto di ragazzine, ragazzini, 17, donne, 18 donne, anni, donne. No, erano ragazze, sì, prevalentemente ragazze, giovanissime, 17, 18 anni, e tanti ragazzi, coetanei, maschi, che si scontrano con un gruppo della Celere, perché arrivano a una via di Viale Manzoni, a Roma, poco prima di San Giovanni, dove c'è una grande e fetente associazione per la vita, ossia quelle associazioni che predicano le donne devono fare figli, che il ruolo della donna è di fare i figli nella famiglia e che basta con questo abominio dell'aborto perché si uccide la vita. Questi vedono, intuiscono, annusano che lì c'è il problema, che lì c'è il problema della condizione della donna, lì c'è il problema degli stupri, c'è il problema dei femminicidi, sta lì, e decido di imbrattare. Immediatamente arriva la Celere per impedire quella cosa e partono degli scontri per come potevano fare questi ragazzini con la polizia, e non indietreggiano, si scontrano, la polizia tira fuori manganelli e manganelli, e loro comunque non se ne vanno. La destra dice che quella roba, vedete, la manifestazione femministe, poi sono contro la violenza, poi fanno la violenza. E la parte progressista che aderiva alla manifestazione, che sostiene la manifestazione, la parte politica ha detto, no, ma quella non c'entrava niente con la manifestazione. Però anche lì io mi aspetto che le condizioni, se la soglia della crisi arriva a un punto tale, anche le donne saranno violente. Le manifestazioni tipo quella del 25 novembre, troveremo degli scontri di piazza o delle cose dove si passeranno ai fatti, necessariamente. Cioè, la crisi di un modo di produzione è disfacimento di quello che il mercato con violenza aveva condensato. La crisi determina che le relazioni del mercato si rompono e da lì escono fuori rivolte nelle forme che non sono quelle del passato, dove non c'è un movimento già organizzato che pensa di aver accumulato una propria eccetera, una propria, diciamo, posizionamento dal quale poi traboccare. No, mezzanotte. È un argine che si rompe, è l'argine che si rompe, non è la diga che controlli gli e poi apri. No. Argini che si rompe. Va bene? Questo è per il futuro, insomma, quindi noi aspettiamo un futuro così, pieno di rivolte, a ondate discontinue. Noi vi stiamo consegnando un messaggio. Babù, andiamo a pregare. Grazie innanzitutto per l'attenzione, grazie a Renato Varani.